24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca. Mi preoccupo che se i miei figli possono avere un lavoro tramite me, guai! Mi preoccupo che il mio avvocato non difenda delle cose che possono vedere un conflitto di interesse. Io, che non ho nessun incarico istituzionale, penso se fossi un ministro. Ma io do una cena e prendo 10.000 euro da queste merde qua. Prendo sto per me. Pensa quanta gente criminale ho frequentato nella mia carriera di artista, se mi è concesso chiamarmi così. Quante foto ci avrò con Totò Occulto, quante foto ci avrò con o Guapariel, quante foto nelle discoteche di notte giravano, quante ne avrò? Quando mi propongono una foto con qualcuno, io faccio sempre l'espressione come se il magistrato mi chiamasse e mi dicesse: non lo conoscevo, guardi, Ci dobbiamo sfogare. La mafia ci depisce, perché ci ricorda qualcosa che non c'è più. Non c'è veramente più la mafia. Io voglio sottolineare che oggi un'associazione mafiosa è formata da commercialisti, banchieri, politici, uomini d'affari, magistrati, poliziotti. Non c'è neanche il mafioso. Sei un pozzo di scienza, ma quella violenza di cui parli tanto ce l'abbiamo dentro. Beh, l'ultima fa un po' parte del suo repertorio, quella che l'associazione mafiosa ormai è formata da un magistrato, un poliziotto, un politico e non c'è neanche il mafioso, l'ha già detta, ma le altre facevano ridere, quella della foto, io mi immagino la foto di Beppe Grillo che si avvicina a uno un po' strano e lui fa la foto con quella faccia, no? Ve l'ha immaginata quando ogni tanto fa le facce Beppe Grillo, come dire al magistrato, oh, chi minchia lo conosce questo? Un Beppe Grillo alla riscossa, come dire, un grillo parlante, abbiamo utilizzato questa di Bennato che poi in realtà è, pare sia un po' grillino, Bennato. Vabbè, alle 6:31 minuti, ormai quasi 6:32 minuti, qui siamo a 24 mattino, buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati, che state facendo? State dormendo? Siete indaffarati? Siete ancora sotto le coperte a rotolarvi, debosciati che non siete altro? Scrivetecelo al 349-238-6666, qui voglio salutare subito Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli che poco fa dice non va neanche una stampante a Radio 24, è tutto sotto controllo, se non va neanche una stampante possiamo aprire il Parlamento, va? Effettivamente non vanno le stampanti. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Il caffè della Boschi, intanto voglio salutare subito il grande Vincino, come stai Vincino? Sei pronto? Assolutamente, pronto, non sono stanchino, sono tutto pa. Eccoci qua. Non sei stanchino. Guarda. Le stupidaggini mega colossali dette da Grillo che non ha mai capito nulla di nulla, no, la cosa, la mafia non esiste più. Vada nei quartieri popolari di Palermo, vada nei quartieri di periferia dove la mafia la vede ogni metro, la mafia quella vera, no? Quella che ogni quartiere di Palermo c'ha 20-30 famiglie mafiose, metà sono in galera ma metà sono ancora fuori, che chiedono il pizzo, che in generale la mafia non dava soldi ai politici, la mafia li prende soldi dai politici, questa è la differenza fondamentale. Va bene, no? Aspetta che sto già per segnare tutto su Twitter, sempre per accompagnarti in una giornata molto serena. Molto serena. Dopo la mettiamo giù bene, Beppe Grillo non ha mai capito nulla di nulla. Di nulla, ma soprattutto di mafia. La mafia, quella che non ammazzava i bambini, il primo bambino l'ha ammazzato nel 46 che si conosce, no? Ecco, il capo mafia di Corleone lo ammazzò con le sue mani, faceva il medico, no? Questo bambino disse: ho visto le cose, venga qua, ti faccio l'iniezioncina così stai meglio. Paf, track. Ecco. Peccato totale, ecco. No. Vabbè, siamo partiti, come dire, in maniera scoppiettante. Come sono ignoranti in generale tutti, no? E poi hanno questa cosa. Tu hai presente quando c'è un cadavere, uno muore, sta morendo, sì, arrivano subito le mosche, le cose, quella, ecco. Appena c'è un po' di politica che muore, subito si infilano queste mosche grilline, che campano di cadaveri, di cose. È una cosa mannaggia. Il clima è questo. Intanto, caro vicino, ti presento un querelato. Ti presento un querelato. Chi non ha una querela sul groppone? Il vice direttore. Una mizzicata di quelle pazzesche. Il vice direttore di Libero, Massimo De Manzoni. Buongiorno. Buongiorno. Come si sta da querelati, Massimo De Manzoni? Querelati da Marino. Ignazio Marino annuncia querela a Libero. Serenissimi, anche perché questi sono annunci, non sono querele. Poi la voglio vedere le querele, bisogna poi presentarle e soprattutto bisogna vincerle. Qui non sarà facilissimo. Ma perché vi vuole querelare? Perché voi avete scritto che il Comune di Roma ha dato un appalto scontato alla cooperativa di Buzzi, in pratica? Noi abbiamo scritto che il sindaco Ignazio Marino ha preso un importante finanziamento in campagna elettorale della cooperativa di Buzzi, che maneggia solo ed esclusivamente soldi pubblici, vorrei ricordarlo, anzi maneggia solo ed esclusivamente soldi che riceve dal Comune di Roma, perché come Comune di Roma lavora con gli appalti del Comune di Roma. Qualcuno anche dal Ministero, no, di Alfano pure dipende. Sì, però in gran parte lavora con il Comune di Roma, e dopo aver finanziato la campagna elettorale di Marino si è vista riconfermare gli appalti che aveva prima e poi scontare in maniera abbastanza importante, oserei dire, cioè da un valore di 74.000 euro a un valore di 14.000 euro, l'affitto del voi l'avete scritto e Marino annuncia querela. Tra l'altro voi oggi scrivete proprio sul Libero a dire: caro Renzi, restituisci un po' i soldi che i vari candidati del PD hanno preso dalle cooperative di Buzzi in campagna elettorale. Ecco, anche lì lo prendiamo in parola, dice: i corrotti devono restituire i soldi fino all'ultimo centesimo. Beh, suggeriamo un primo passo, cioè, abbiamo fatto due conti e dice: qualcosa puoi fare anche tu, qualcosa, questi 140.000 euro. No, ma oggi ci sono dei particolari su Roma e vi voglio chiedere un parere al veneto veronese De Manzoni, tifoso del Chievo Verona, e al palermitano ma romano Doc Vincino, su quello che sta succedendo a Roma. Tifoso del Palermo, sì. Devi ricordarmi ancora che il Palermo ha battuto il Milan 2-0 a San Siro. No, quello è, come dire, non è... Vuoi infierire? Vuoi girare il coltello nella piaga? Assolutamente no. No. Facciamo pure, fai pure, intanto voglio dire. Oggi alcune notizie interessanti le trovate anche sul Fatto Quotidiano. Sapete che raccontano che Alemanno, Buzzi e Carminati, Vincino, sai che si sono già incontrati in passato, 1982, sai dove? In carcere. A Rebibbia, esatto, perché Alemanno era lì perché aveva lanciato una molotov all'ambasciata sovietica e Carminati e Buzzi erano lì, Buzzi per un omicidio e Carminati perché, vabbè, Carminati, insomma, era cercato. Un abitué. E quindi il Fatto dice: si erano condividevano il carcere. Ora tu che in carcere ci sei stato, caro Vincino, cosa ci puoi dire? Ricordiamo che Vincino è stato in carcere. In carcere si chiacchiera con tutti. Io mi ricordo una cena. Ho capito, ma il fatto di essere stato nello stesso carcere, questo cosa vuol dire? Tu che hai esperienze di carcere. A Roma ce ne sono due, no? Come dire, o a Rebibbia o a Regina Celi, dipende dove. No, il carcere era quello, era Rebibbia. Rebibbia, e quindi stavano meglio. No, io al carcere di Malaspina a Caltanissetta. Ma il fatto di condividere un carcere può far dire allora si conoscevano, no, allora. Assolutamente, si conoscevano al di fuori, non è che si vedevano più o meno spesso e volentieri, cioè, è un amico comune, quel Mancini che è un uomo determinato, un uomo di Alemanno, anzi a capo della fondazione Alemanno, c'era là. Sì, vabbè, qua però perché l'accusa, no, De Manzoni del Fatto Quotidiano è come dire. Sì, ma non è l'accusa del Fatto Quotidiano, posso dire, facciamo un passo indietro, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Lo scoop è di Formigli, della trasmissione di Piazza Pulita, che ha intervistato tale Bull, che è il braccio destro, era il braccio destro, diciamo così, di Buzzi, di Buzzi, il quale si trovava in carcere, lo ricordiamo magari perché aveva ammazzato con 34 coltellate il suo socio D'Affari e aveva cercato di bruciare il cadavere giusto per inquadrare il personaggio. Vabbè, era redento, dai, adesso era redento. In effetti racconta Bolla che i due erano in carcere insieme nello stesso periodo e che lui la cosa l'ha saputa perché poi dopo, quando si sono incontrati fuori, si sono riconosciuti e hanno detto: ma tu sei quello? Ah sì, sei in cazzo. E in quell'occasione Buzzi chiede a Alemanno di ridare un po' di ossigeno alla sua cooperativa, che all'inizio con Veltroni prosperava abbastanza, e Alemanno quando era arrivato aveva tagliato tutti gli appalti. Alemanno, secondo il racconto di questa Bolla, dice: ah beh, ma sì, ma siccome noi siamo compagni di cella, allora va bene. Compare di cella. Vieni qui che ne riparliamo. Ed allora è nata questa. Vabbè, Vincino, capisci che allora in carcere succedono queste. Intanto scusa Vincino, che devo twittare, aiutami a capire se. Vincino 24 mattino, Grillo non ha mai capito nulla di nulla, soprattutto di mafia. Dice stupidate su stupidate, va bene? Va bene così, twittiamo. A Grillo di farsi un giro nei quartieri di Palermo. Vabbè, ma 140 caratteri, adesso non potevo, ho detto questo, un sunto. Lo so, comunque passerai una buona giornata con i grillini, comunque, dopo questa frase. Bene, ma voglio farvi sentire napoletano. Adesso utilizziamo il linguaggio felpato che si addice, perché il Presidente della Repubblica dice le cose ma non le dice. Dice che ci sono degli opinionisti così, ma non dice chi, perché è così il capo dello Stato. Però diciamola francamente, ha fatto un attacco al Movimento 5 Stelle, ha detto che sono eversivi, ecco questo, dai, l'antipolitica. Ha fatto bene. L'unica cosa che è un guaio è che poi ha finito con un'esondazione come il Seveso, no, una chiagnata generale. La chiagnata generale. Senti, ecco, io una cosa che un pochino lo dico con estremo rispetto, ma insomma, Napolitano che appena parla adesso piange, ormai è da 2 anni, sentite subito che piange, appena per bocca piange. Non so, sarà anche un po' l'età, ovviamente. E tutti? In tutti questi anni qui ai Lincei è stato qualcosa. Ne ha detto stasera qui con bellissime e generose parole il presidente Maffei. Rispetto! Sì, ma io una cosa invece ieri è successa, che non so se avete notato. A un certo punto apro la televisione, quella canale istituzionale, vado sul Senato. Sì. Ma l'unico al mondo che va sul canale del Senato, vi rendete conto? De Manzoni, quante volte tu hai cliccato per seguire il canale del Senato, se non per delle votazioni clamorose? Io non lo so, ma Vincino, ma che vita fai? Il CNEL. A parlare, sì, una ragione del CNEL, non era il CNEL quello che sta morto, abolito 10 anni fa, rimorto 2 anni fa, è sempre là, più vivo che mai, il CNEL. Sì, vabbè, ho capito, ma che, cioè, non lo so, che dovevi dire della chiagnata generale? No, niente, basta. No, perché lui vede l'Italia, cosa è disperato, giustamente, poi vede tutti, cioè, come dire, questi qua, appena la politica sta un po' morendo, arrivano tutti questi, queste zecche, queste mettere larve, no? Zecche, larve, no! Questa la dobbiamo twittare subito, ovviamente zecche, larve del 5 Stelle. Insette, mosche, grillini, cose, insette, che si nutrono di cadavere. Insomma, è una cosa terribile. Vabbè. Hai sentito De Manzoni? Posso dire che io, che penso di non poter essere sospettato di simpatie grillini in nessun modo, posso dire che secondo me Napolitano ieri ha detto una colossale sciocchezza. con tutto il rispetto di quello che è, ma ha detto una colossale sciocchezza, perché l'antipolitica eversiva, se si riferiva, come tutti hanno interpretato, come probabilmente ai 5 Stelle, non solo, ma probabilmente anche alla Lega, io penso, beh, ha detto una grossa sciocchezza. Questi sono, per quanto si possa condividere o meno, gente che fa politica. Allora, se vogliamo, vogliamo sentirlo Napolitano, perché così c'è, cioè, una cosa che non sta nel cielo. Sentiamo sull'antipolitica, sentiamolo. Il senso della misura, di capacità di distinguere ed esprimere giudizi differenziati, è degenerata in antipolitica. Cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. Patologia eversiva. Oh, ma cioè, voglio dire, ma eversione, De Manzoni, è patologia eversiva. Questi si presentano alle elezioni, entrano nei consigli comunali, entrano in Parlamento, fanno politica a modo loro, si può non condividere e si può criticare, ma l'eversione è un'altra cosa, il napoletano dovrebbe saperla anche molto bene, avendo poi militato in un partito che insomma qualcosa ne conosceva dei programmi rivoluzionari per rovesciare governi o per prendere il potere con la forza. E insomma, abbiamo vissuto un periodo in questo paese in cui l'eversione si condizionava quando uscivamo di casa, si usciva di casa non si sapeva se si tornava. Abbiamo vissuto gli anni di piombo. Parlare di eversione in una situazione come questa, a me sembra francamente effettivamente, insomma, cioè, adesso Vincino avesse detto questa frase, che ne so, un Renzi, patologia eversiva, succedeva, per 10 giorni ne parlavamo, oh, ci ha dato degli eversi, perché dai, si riferiva al Movimento 5 Stelle, no? Napolitano ha detto da 2 anni è arrivato, avesse detto questa cosa, no, Vincino, dai, su. Ecco, quando Grillo voleva fare il tribunale popolare quello là per tagliare la testa ai giornalisti, no? Sì. E c'era il giornalista del giorno messo là alla berlina, questa che non è eversione, ma stiamo scherzando, no, sono eversivi ed eversivi di tutti i lati, guarda. Sono eversivi, vabbè, intanto scusa, twitto questa prima di andare al traffico, correggimi, Vincino, appena la politica muore arrivano mosche, zecche, larve, grilli che si cibano dei cadaveri. Sì. Va bene, sì. Oh, così, ottima, dai, andiamo al traffico. 24 mattino. Vorrei sottolineare, cosa che non ha fatto nessuno, l'emerita stronzata che ha detto il ministro della cultura, signor Dario Franceschini, a Frarese, che non vengono a investire perché hanno visto gli sconti di Milano. Forse si è dimenticato di Roma, forse si è veramente dimenticato di Roma, l'emerito nostro ministro. Perché le nostre pensioni non sono un diritto acquisito e le pensioni dei politici sono i diritti acquisiti? Mi vuoi spiegare questo dilemma? Io non ci capisco molto di politica, però vorrei capirlo questa situazione, perché per i cittadini i diritti acquisiti non esistono, per i politici esistono tutti i diritti acquisiti di questo mondo. Buongiorno Alessandro, a proposito della rubrica Ciao Italia, non sai cos'è che mi stupisce? La serenità di questi ragazzi. La gioia di essere via da questo paese. In Italia ci sono due tipi di persone, quelli che parlano e quelli che partono. Roma mafia. Ma che mafia? È un magna generale. Mi aspetto adesso Renzi in Europa che va là e dice: noi volevamo savoir come far a sistemare i conti. Ciao Milan. Vabbè, ha colpito molto il francese di Renzi, adesso magari lo recuperiamo. L'avete sentito parlare in francese, Renzi? De Manzoni, l'hai sentito? Ah, il patre bien. Io sentivo parlare in inglese, mi era bastato. Se devo sentire. Ah, ti è mancato il francese quando è andato in... Vabbè. Adesso allora, perché poi è così, lui dice delle parole, poi gli mancano delle parole e inizia a fare le lezioncine italiane. No, perché in grammatica francese, allora, quando si perde la vocale, ma parla in francese se sai parlare in francese, se no parla in italiano, era lì in Algeria un paio di giorni fa e allora ha parlato in francese, ma vabbè. I bruttaroli ci hanno comprato l'acciaio. No, ma eccolo, vabbè, subito. I fruttaroli algerini, stupendo. Dai, fruttaroli algerini, ma sentite il francese di Renzi, così date un voto. Pronti con la paletta, da 0 a 10. La qualità dei travailleurs, dei lavoratori, come si dice? Travailleur, no? Solitamente si leva la vocale, invece in questo caso stiamo facendo un discorso. Sì, vabbè. E je pense que c'est vraiment, vraiment important pour tout nous, votre investissement en Italie. Vous êtes les bienvenus. Vabbè, dai, De Manzoni, c'è di peggio, no? Sì, sì, c'è di peggio, che ci mancherebbe altro. No, dai, vabbè, a parte quella cosa che è stata spiegata. Ah sì, perché si dice così, perché in francese si perde la vocale, cos'è, vabbè. Lo spiegava agli algerini lui. Sì, sì, faceva una lezioncina di francese. Sì, c'è che c'era, già che c'era un ripassino, si poteva fare. No? Vabbè, comunque, Marino invece è arrabbiato. Ma Marino, ecco, noi ci interrogheremo alle 8.15, alle 8.40 avremo anche ospite Cantone. Lo sai come Marino, secondo sì, me? Sì. Tu hai presente quando c'è la petrolina Exxon che va e tutto sì, il petrolio va per tutto e c'è quell'uccello messo là così tutto pieno di tutto cose, pieno di catrame, sì. Però era tutta colpa di Alemanno, poverino, lui è quell'uccello tutto pieno di catrame che non riesce più a volare. È una cosa, è un'immagine. Ma se invece adesso il PD sembra aggrapparsi proprio a Marino, sembrava 2 settimane fa forse era così, adesso sembra risorto, sembra l'araba fenice, altro sì, che è sempre pieno di catrame, non riesce a volare. Non riuscirà più a volare. Vabbè. Qualcuno dice che un po' è commissariato perché arrivano i commissari di Cantone. Noi avremo ospite Cantone alle 8.40. Qualcuno dice che invece si è salvato. Marino, però, che combatte, eh? Marino contro Alemanno. Mettiamo bene le cose in chiaro: è vero, ci sarà qualcuno nel nostro partito che ha sbagliato, e questo lo vedremo, lo giudicheranno i magistrati. Ma tutto quell'impianto criminale nasce nella destra di Gianni Alemanno. Manzoni, voi che dite? Il PD? L'abbiamo dimostrato con i bilanci della cooperativa alla mano. Questa cooperativa nasce con Veltron, con la sindacatura di Veltron. I primi appalti li prende lì, si consolida. Con Alemanno poi all'inizio gli tagliano gli appalti, poi li recupera attraverso il rapporto che sarà stato in carcere evidentemente o quello con Carminati, sì, tutto sì. Quanto. Con Marino le cose continuano esattamente come prima, anzi meglio, i bilanci della cooperativa diventano più floridi e Marino gli fa quello sconto di cui parlavamo prima. Vabbè. Io non riesco a capire di cosa sta parlando Marino. Lui con questa cooperativa ha fatto esattamente quello che hanno fatto gli altri, anzi lui si è fatto anche finanziare la campagna elettorale. Capito Vincino, perché poi di querela no, ma lui è bello come inizia: ci sarà qualcuno forse dei nostri che ha sbagliato? Sì. Il suo assessore a stipendio pieno, no? 5.000, 4.000, 3.000, non lo so. Tu Alino quanto prendevi? No? Io non lo so, io mi accontentavo di un 50 euro, 50 euro. A me, 2.000. La paghetta. Dai, di la verità, tu Vincino, tu che conosci tutti, questo Buzzi l'hai mai incrociato? Assolutamente no, avevamo carceri diversi, no, intendevo di recente. Mi hanno fastidio, poi 34 coltellate cose, proprio io tutti... E Carminati? Il cecato, solo nelle pagine del libro quello là, no, praticamente... Il libro romanzo criminale, sì. Oggi c'è un'altra intervista a Dio Tallevi, altro boss, che oggi sul Fatto Quotidiano dice: io boss, ma è vero, ma lei in un'intercettazione dice che era il boss di Roma. Ma sì, dicevo per scherzo, intendevo quello che se frega più donne di tutti. Ma vi rendete conto, Dio Tallevi, eh? Mamma mia, ragazzi. Tutto parte dal romanzo criminale. È come Il Padrino rispetto alla mafia americana, che tutti i boss mafiosi si guardavano le puntate del Padrino. Vabbè. Comunque, per chiudere, c'è questa. Oggi Vincino disegna anche la serpentona tedesca. Chi è la Merkel? No? L'anaconda che si strozza. Quello che si fa mettere dentro l'anaconda. Sì, sì, l'ho visto. Un pirla che si voleva fare stritolare da un'anaconda quasi. Renzi che va a parlare con la Merkel. Cioè Renzi, l'anacondona e la Merkel che stringe e mangia Renzi. Il serpentone finanziario. Ma ieri Juncker, attenzione, perché ieri Juncker ha detto: o fate qualcosa, cioè fate le riforme, oppure ci saranno ritorsioni pesanti. A noi ha ricordato un po' il celebre film di Fracchia, così per scherzare, di Lino Banfi a Fracchia. Adesso per te saranno volatili per diabetici. Ma è un quiz? Saranno cazzi veri! Ecco, più o meno De Manzoni, più o meno Juncker ci ha detto questo, se non facciamo le riforme. Scusa. scusa, Juncker sì. È quello che faceva pagare alla Walt Disney lo 0,28% di tasse. A me mi facessero pagare lo 0,28%. Sì, è quello delle tasse in Lussemburgo. E vabbè, ho capito adesso. Sì, Juncker è quello delle tasse in Lussemburgo, e la Merkel è quella che ha un surplus commerciale fuori dai parametri UE. Cioè... Oh, bravi italiani! Tenete alto. Direbbe il più pulito c'è la rogna in questi casi qui. Tenete alto l'onore dell'Italia, vi mandiamo in Europa, Vincino e De Manzonia, a parlare con la Merkel. Mandiamo voi. Io ci vado, mi fai il biglietto aereo, andate in ritorno e io ci vado. Ah, ecco, sì, non so il tedesco, ho bisogno di un interprete, ma con Vincino ci vado insieme. Portati Renzi. Che dice due parole anche in tedesco. Io e Vincino facciamo i politici, Renzi ci fa da interprete, perfetto. Va bene. Allora, sentite qua Marino contro il 5 Stelle, i 5 Stelle, c'è anche, tra l'altro ieri Orfini, no, chiudiamo con questa, ha fatto una riunione, che cosa c'hai con Orfini? Ha fatto una riunione di piazza. È presente Orsini, quello là dell'Ottocento, lui sembra un martire Orsini sì. Sembra uno di quelli, alla faccia proprio di quelli là con la barbetta. Cosa vabbè, risorgimentale. Sentite, ieri manifestazione di piazza perché il PD vuole riconquistare le piazze, sono andati al Laurentino e insomma è finita, vabbè. Dallo Stato fuori la mafia, dallo Stato. Fanno schifo tutti, fanno schifo tutti, e c'è San Lavoro, non c'è San Vincino, un po' così. D'altronde ti metti in piazza a Laurentino adesso, che vuoi immaginarti? Così finisce. Che devi fare? Vabbè, Vincino, ti saluto. Sei ad Anno 1 questa sera? Stasera ad Anno 1. Dove ci può anticipare qualcosa? Farai? Te l'ho già anticipata. È il serpentone. E che fai? Ricicli le vignette del foglio? Il serpentone no, quella di Marino, questo tutto pieno inzaccherato là. Ho capito, ma non bruciare, ma non ci ha ascoltato nessuno. Ma non bruciarti le cose. Non bruciarti le cose così. Non bruciarti, tieni. Vabbè, saluto Vincino, grazie. Così come Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17, cari ascoltatori, anzi ormai 7:18, siamo pronti a leggere i giornali. Vi ricordo che oggi torneremo a parlare della vicenda di Roma, avremo ospite anche il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, avremo ospite Daniele Frongia che è un consigliere del Movimento 5 Stelle a Roma. Avremo ospite Chicco Testa, imprenditore. La domanda di fondo che vogliamo porre è questa, ma non è, come qualcuno si chiede, il caso di sciogliere tutto a Roma? Ieri sulla stampa c'era un dibattito, chi diceva di sì, chi diceva di no, sciogliere tutto per infiltrazioni mafiose, sciogliere il comune, mandare tutto all'aria. Marino dice così si fa proprio il gioco di coloro che brigavano per i loro affari. C'è chi invece dice, come il Movimento 5 Stelle, tutti a casa. Ne discuteremo alle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. È giovedì 11 dicembre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre ancora sulla Grecia e le forti tensioni sui mercati per la Grecia e il petrolio, questo è il titolo di prima pagina, mentre le parole di Giorgio Napolitano ieri sono l'apertura per molti quotidiani oggi. Corriere della Sera, l'antipolitica, patologia eversiva, così Giorgio Napolitano. Mentre Repubblica, Napolitano, stop all'antipolitica, governo battuto. Il Fatto Quotidiano, Napolitano scarica barile, attacca Grillo e pure Renzi. Il Messaggero, il Colle, antipolitica eversiva. Per il Giornale, il depistaggio di Napolitano. Mentre Libero, la Ferrari lascia Renzi a piedi. Marchionne volta le spalle al suo amico, porta al marchio italiano più famoso via dal nostro inferno fiscale. L'apertura a questo. Mentre La Stampa dedica l'apertura a una frase che Renzi ha detto ai suoi collaboratori, scrive La Stampa e la mette in prima pagina. Renzi, se falliamo noi c'è la Troica. Questo il titolo di prima pagina. Se vogliamo partire ancora da alcune notizie, beh, la cronaca nera impone diverse pagine dei giornali sulla vicenda del piccolo Loris. E gli articoli più interessanti che oggi sviluppano gli atti dell'inchiesta sono sul Corriere della Sera, sono tutti retroscena che vanno a scavare sulla vita, sul passato di Veronica Stival, colei che è la madre di Loris, che è in carcere accusata dell'omicidio, ma si continua a professare innocente, tanto che ha fatto un appello al marito, come racconta il Corriere della Sera, mentre le altre detenute continuano a gridarle assassina. Sapete che l'abbiamo detto già ieri, come se ci fosse già una sentenza passata in giudicato. La donna invece continua ad appellarsi al marito dicendo: non mi abbandonare Davide, credimi, sono innocente, non ho ucciso Loris. E tra l'altro racconta il Corriere che dopo aver detto delle frasi molto pesanti, e cioè se è lei per me può anche morire, il marito ieri davanti alle immagini dei PM, le immagini filmati, dice: ho visto delle sagome, ma non sono sicuro che sia Loris, queste immagini sono delle sagome. Insomma, ha dei dubbi, nel senso che non riconosce nelle immagini la nitidezza che invece gli hanno messo davanti e di fronte i magistrati. Sta di fatto che, ripeto, si va a scavare molto nel passato di questa donna, certamente una adolescenza molto turbolenta, come quando raccontano tutti un episodio, andò a svegliare il padre dicendo: secondo me la mamma ha un amante, il padre la schiaffeggiò e allora Veronica uscì di casa e provò il suicidio impiccandosi con un tubo da irrigazione in una serra, ma fu salvata dai carabinieri. Fu portata per questo anche in un centro psichiatrico a Ragusa, dove ha denunciato una violenza sessuale, implorando la mamma: portami via, un infermiere mi ha violentata questa notte. Poi più avanti negli anni denuncia un'altra violenza sessuale da parte di un altro uomo, non ovviamente suo marito, prima di suo marito. In entrambe le occasioni, fa sapere il Corriere della Sera, ci furono denunce, ma non ci fu nessuna condanna nei confronti delle persone denunciate. Insomma, anche per il Corriere, i depistaggi, le invenzioni, spunta anche un telefonino segreto. Questo è Veronica, questa donna, secondo ovviamente il profilo che ne hanno tracciato gli investigatori e i PM nel loro decreto di fermo. Anche Repubblica, tutti i segreti di Veronica, dalle manie di persecuzione alla ricerca del vero padre, la sua ossessione era il suicidio. Certo, diciamo che sono profili, sono spaccati, si va anche a indagare sul passato. Sta di fatto che lei si continua a professare innocente e anche il marito, messo di fronte a questo passato della donna, dice: mi hanno detto che in passato ha provato il suicidio, io l'ho scoperto solo ora. Questo lo trovate tutto sui giornali. Come avete sentito invece, Time sceglie ogni anno la persona dell'anno, the person of the year. Quest'anno è andato all'Ebola Fighters, cioè coloro, i medici, gli operatori sanitari che in prima fila nelle zone dove l'Ebola c'è, tutti bardati, mascherati, coperti, combattono ogni giorno la diffusione di questo virus. Ho visto quei medici morire per fermare Ebola. Time nomina personaggio dell'anno tutti coloro che hanno lottato contro il virus. C'è anche un'intervista a Maurizio Barbeschi sulla Stampa, che ha guidato la missione dell'OMS, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per fermare il contagio di Ebola in Nigeria. C'è un commento sulla Stampa di Domenico Quirico a pagina 16. Il titolo è: i miei eroi della speranza. Scrive Quirico: il mondo, si dice, è tutto male, egoismo e dolore. In Sierra Leone ho incontrato molti uomini che hanno detto no. Lo hanno detto mentre le epidemie devastavano villaggi, avvinghiavano le città che gemevano come isole maledette. Mentre l'orgogliosa certezza che la scienza fosse onnipotente e preparata a tutto si sbriciolava penosamente. La lunga fatica degli uomini sembrava inutile e dalle case, dagli ospedali ingombri di cadaveri e moribondi uscivano grida orrende. I medici, gli infermieri erano i primi che la pestilenza aveva spazzato via Ebola. aveva ebola che aveva ricoperto ogni cosa, non vi erano più destini individuali ma solo una storia collettiva, la pestilenza. E allora gli eroi di ebola hanno indossato tute candide che non li renderanno certo invulnerabili, hanno preso per mano gli africani che morivano e si sono avviati. Eroismo è parola abusata, stanca, infettata da mille retoriche spesso bieche. Non per loro, io l'ho usata. È giusto che l'abbia usata anche Time. Il loro eroismo è nel non mettere limiti alla propria opera, alla propria fatica, l'austera, rischiosa predicazione dei fatti. Li ho visti entrare negli ospedali per il trattamento degli infettati. Un piccolo errore nello sfilare un guanto, nel deporre un indumento di protezione, significava la morte. Li ho visti uscire ogni giorno con sul volto il misterioso genio della pietà. Quando sono tornati a casa hanno dovuto affrontare il calvario del sospetto vile, gli scantonamenti che toccano al presunto untore. Il loro miracolo in questi mesi e in quelli che purtroppo ancora verranno è quotidiano. Ci hanno insegnato a non piangere e a non disperare. Ecco, questo è il profilo, secondo me molto molto efficace, di Domenico Quirico sulla Stampa agli Ebola Fighters, coloro che combattono l'ebola, coloro che sono giudicati dal Time persona, o meglio persone in questo caso dell'anno. Siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa giornata. Guardate, il tema l'abbiamo affrontato due giorni fa quando abbiamo parlato di abusivismo edilizio, e sentite un po' cosa ci propone Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera. Messina sfida ancora le frane. Io non ci volevo credere, stavo per spaccare il microfono. Alla prossima frana, è la premessa di Stella, non osino chiedere aiuto allo Stato. Alla prossima frana non osino strillare davanti alle telecamere, non osino invocare risarcimenti per danni. Perché lo sanno tutti a Messina che è da pazzi costruire nei letti dei torrenti Trapani e Boccetta. Eppure, appena rimosso il funzionario che si opponeva a questo, sono ripartiti i cantieri, come se tante tragedie non fossero mai avvenute. È una pazzia doppia, quella di Messina, perché i numeri dell'anagrafe dicono che la città, a dispetto di piani di sviluppo megalomani, perde abitanti. Ne aveva nell'81 260.000, oggi ne ha quasi 20.000 di meno ed è tappezzata di cartelli, vendesi e affittasi, al punto che Lucio D'Amico, sulla Gazzetta del Sud, parlando dei nuovi cantieri, scrive che i costruttori tireranno un sospiro di sollievo, ma poi dovrebbero spiegare a chi venderanno. Analisi certificata anche dall'Osservatorio Immobiliare 2014 di Nomisma, che parla di crollo delle compravendite sullo stretto. E a maggior ragione in questo contesto è possibile comprendere l'altra pazzia, quella di costruire in zone ad alto rischio. Sono anni che il canalone lungo il quale scende il torrente Trapani viene additato come un'area pericolosa e anni che continuano a tirare su condomini. Ah, se Messina costruisce palazzi nei due torrenti delle frane. Questo sul Corriere della Sera. Quando mi dicono in tanti, quando mi incontrano, ma tu così raccontandoci queste notizie ci fa arrabbiare, io dico sempre no, vorrei instillare, leggendo quello che raccontano i giornali, delle piccole memorie, frammenti di memoria. Ricordatevi, cari italiani, ricordatevi, quando, speriamo di no, ci sarà mai una frana, se mai ci sarà, e magari qualcuno piangerà dei morti a Messina, abbiate il coraggio di dirgli: è colpa tua, disgraziato. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. Alessandro Milan, il Rossello Brescio dell'informazione. Questo non è male, non è male. Ovviamente mandiamo il nostro caro abbraccio da tutta 24 Mattino, da tutta la redazione unita, a Rossella Brescia, nostra amica di RDS. E allora, ieri Giorgio Napolitano ha parlato, ha fatto un discorso all'Accademia dei Lincei e in questo discorso ha detto delle parole molto molto forti, soprattutto parlando di Roma, della necessità di colpire i corrotti. Ha parlato, e questa è la frase che fa titolo, dell'antipolitica, l'antipolitica definita eversiva, è un'accusa gravissima. Io dico, col massimo rispetto, l'avesse fatta qualsiasi politico, si parlerebbe per giorni, insomma, accusare di eversione. chi fa antipolitica è un'accusa molto grave. Comunque, colpire i corrotti, ma l'antipolitica è eversiva. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 7. Lina Palmerini racconta l'attacco durissimo alla degenerazione della politica e l'attacco altrettanto forte alla patologia eversiva dell'antipolitica. Così Giorgio Napolitano all'Accademia dei Lincei. Un affondo che parte da Roma, dalle ultime inchieste di quella che è stata chiamata mafia capitale. L'attacco ai partiti non porta all'antipolitica. Al contrario, dice Napolitano, la critica della politica dei partiti, preziosa e feconda nel suo rigore, purché non priva di obiettività, è degenerata, ha detto, in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. È urgente reagirvi denunciandone le faziosità, le distorsioni, impegnandoci in pari tempo su scala ben più ampia, non solo sulle riforme ma anche su un'azione volta a riavvicinare i giovani alla politica. Beppe Grillo è stato il primo a reagire dicendo: stia attento, lo denunciamo per vilipendio al movimento. Al movimento Beppe Grillo, che tra l'altro ieri è ricomparso proprio al Senato a parlare e lanciare la campagna e il referendum contro l'euro. Certo, però queste parole sono parole che hanno molto colpito. Corruzione antipolitica eversiva, Napolitano chiede la riscossa. Questo è il titolo anche di pagina 5 del Corriere della Sera, che racconta questa vicenda. Sta di fatto che ieri, di pari passo con queste accuse molto gravi del capo dello Stato, è successo un fatto politico che potrebbe avere conseguenze. Il fatto politico in sé magari sono tecnicismi parlamentari che faticate a capire, e come dico sempre, non c'è nulla di grave, siete voi i normali, sono loro quelli strani. Comunque è successo che il governo è andato sotto un paio di volte perché si sono rinsaldate delle minoranze del PD e alcuni di Forza Italia in commissione sull'emendamento Lauricella, che cancella i 5 senatori a vita, riapre i giochi sulla composizione del Senato, rilancia subito la legge elettorale pronta per l'uso, cioè il Mattarellum. Ecco, su questa cosa complicatissima il dato di fatto politico è che il governo è andato sotto. E allora ecco le reazioni. I renziani chiedono elezioni subito. Si rinforza l'idea di andare a votare a maggio. Renzi che dice ai suoi: stiamo tranquilli. Eccola qui la frase che ha detto ai suoi collaboratori, che è il titolo di prima pagina della Stampa. Renzi ai suoi dice: attenzione, se falliamo noi arriva la troica. Avete visto quello che dice Juncker, cioè il capo della Commissione Europea? E mettiamolo lì da parte, tra poco vedremo che cosa ha detto Juncker. Dunque, a chi preme per andare a votare, perché, come dire, non abbiamo la maggioranza sotto controllo in Parlamento, quindi andiamo a votare a maggio, Renzi dice: stiamo tranquilli. Giachetti è il più scatenato dei renziani, ha subito twittato ieri: elezioni subito, quando sono andati sotto in due votazioni alla maggioranza. La maggioranza è andata sotto due volte. E qui è partito, insomma, il dibattito, il retroscena. Secondo il Corriere della Sera, in realtà Renzi punta a elezioni a maggio, sono sempre più vicine, anche perché le riforme non si fanno. Sapete la Lega per dire quanti emendamenti ha presentato alla legge elettorale? 10.500, cioè questa foto di Calderoli che porta gli emendamenti che devono essere stampati su carta, così le foreste in Amazzonia sono molto contente nell'era della tecnologia, le porta con dei carrelli. Sapete i carrelli che si usano nelle aziende per spostare e movimentare le cose? Ecco, 10.500 emendamenti, non so, 30 faldoni di carta portati su un carrello da un sorridente ridanciano Calderoli, insieme a due colleghi della Lega. Ebbene, questo politicamente. Che cosa ha detto Juncker? La frase a cui fa riferimento Renzi. Beh, Juncker ha fatto un'intervista a un giornale tedesco, alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha detto in pratica: o l'Italia fa le riforme, oltre che l'Italia anche la Francia, cioè o Italia e Francia fanno le riforme o ci saranno conseguenze spiacevoli. Conseguenze spiacevoli. Lui, sì, Juncker, quello dell'accusa di elusione fiscale quando era premier in Lussemburgo, insomma. Però, ecco, conseguenze spiacevoli a Italia e Francia se non fanno le riforme. Ecco allora che Renzi, così si reinterpreta la frase detta da Renzi, e cioè se falliamo noi c'è la troica. In tutto questo c'è sullo sfondo la vicenda Roma, l'inchiesta Mafia Capitale. Ci sono ancora tanti articoli, noi ne parleremo alle 8.15 con questa domanda che pongo agli ascoltatori: andrebbe sciolto il comune di Roma? Certo, è Roma Capitale, capisco, ma di fronte a quello che si sta scoperchiando, secondo voi andrebbe azzerato tutto, come chiedono quelli del Movimento 5 Stelle, come invece si oppone a dire Marino, che dice così sarebbe la vera vittoria di coloro che brigavano per fare affari? Intanto l'inchiesta, l'inchiesta, molti giornali si concentrano proprio su quelle strane file di Rom a votare alle primarie. Ora, lo scenario, come racconta Giovanna Vitale a pagina 6 di Repubblica: pasta in cambio di voti, mazzi di tessere comprate, viaggio nel PD delle clientele, con pacchetti di tessere comprate in bianco dai capi bastone, restituite compilate, come però da chi non si sa, code di extracomunitari e seggi delle primarie, pulmini di anziani prelevati dai centri ricreativi e ricompensati con pacchi di pasta, soldi distribuiti fuori dai circoli per incentivare il voto, congressi finiti a insulti e spintoni. Benvenuti, insomma, nel meraviglioso mondo del PD a Roma, quel PD che oggi il commissario Orfini dice va raso al suolo a Roma. E ricorda Repubblica la frase dell'allora deputata Marianna Madia, oggi ministra della pubblica amministrazione, che disse 2 anni fa nel PD a livello locale, parlo di Roma, facendo le primarie ho visto, e non ho paura a dirlo, vere e proprie associazioni a delinquere sul territorio. Allora fu politicamente, mediaticamente linciata per queste parole. Come si va a riscoprire una storia come la storia e la denuncia di Cristiana Alicata, lo racconta il Fatto Quotidiano a pagina 4. Cristiana Alicata del PD, quando ci furono le primarie, twittò questa frase: che incredibili file di Rom quando ci sono le primarie, tutti che si scoprono appassionatissimi di politica. Allora questa dirigente del PD locale fu tacciata di accusa di razzismo, specie all'interno del partito. Oggi quella frase, racconta il Fatto, alla luce delle indagini sulla mafia a Roma, potrebbe avere addirittura un peso diverso. Parlava del seggio del 15° municipio, zona Magliana Portuense, vicino a un campo nomadi, dove, racconta Tommaso Rodano oggi del Fatto, i Rom del campo di Buzzi in fila alle primarie Dem. C'è anche la storia, invece, il Messaggero racconta, pagina 3, di un signore che si scoprì eletto e iscritto al PD, lui che dice: ma come, io ho sempre votato Berlusconi, mi sono scoperto iscritto al PD perché avevo fatto una firma, pensavo di raccogliere una firma, fosse una raccolta di firme contro un centro commerciale, mi sono ritrovato iscritto al Partito Democratico. Tra l'altro, sempre su questa vicenda di Roma, il Fatto Quotidiano oggi inanella un paio di pagine non male. Pagina 5, Rebibbia 1982, Buzzi, Carminati, Alemanno dividevano la galera. Questo è il titolo, e l'articolo di Antonio Massari e Davide Vecchi racconta che Alemanno era a Rebibbia in quel momento perché è accusato di aver lanciato una Molotov contro l'ambasciata dell'Unione Sovietica. Di lì a poco sarà prosciolto da questa accusa, ma in quell'istante, in quel momento in carcere a Rebibbia c'erano anche Salvatore Buzzi, 26 anni, per l'omicidio commesso con 34 coltellate di una persona, e Carminati. Ebbene, l'ex sindaco era dentro, il re di Roma anche lui per una misura antiterrorismo, l'uomo delle COP per un omicidio. E se uno gira pagina, parla quello che viene definito da molti uno dei boss di Roma, vale a dire Ernesto Diotallevi, 70 anni, intervistato da Fausto Benelli, lui che in un'intercettazione dice al figlio: io sono uno dei boss di Roma, e ora, intervistato dal Fatto, dice: ma stavo scherzando, intendevo per boss quello che se frega più donne di tutti. Vabbè, Dio t'allevi, dice, io boss scherzavo, Carminati è un bravo ragazzo, intelligente, molto colto, magari si esprime un po' così, uno che ti può dire tranquillamente te strozzo, t'ammazzo, ma poi finisce lì. E ancora Dio t'allevi, individuato da alcuni come uno dei boss di Roma, dice in questa intervista al Fatto, Carminati ha cercato Alemanno? Bah, non credo che uno come lui cerchi Alemanno, semmai può essere vero il contrario, cioè che Alemanno cerchi Carminati. Comunque, bei soggetti come il nostro Mauro Meazza, che saluto, tra poco leggerò ancora di Roma, perché ci sono altri articoli, ma Mauro, buongiorno, si parla di carcere, buongiorno. E allora eccoci qua. Esatto, no, infatti sono stato chiamato in causa, l'unica citazione che così poteva non dispiacermi, quella particolare accezione del termine boss che ti ho sentito. Airboss, detto Airboss del Sole 24 Ore, Meazza, lo no, sanno tutti, no, perché, quello no, che se frega più donne di tutti, Ma più che altro perché l'alternativa qui mi sembra quasi andare in galera, non mi fa tanto conveniente. Senti, guarda che non si fa la tassa locale nel 2015. Molto bene. No, molto bene, un accidente. No, era chiaramente ironico. E comunque Gianni Prati ti spiega tutto oggi sul Sole 24 Ore, ci sono un po' di problemi a riunire queste TASI, TARI e tutte queste varie sigle, insomma, forse non ce la facciamo, se ne parlerà nel 2016, vedremo se ci sarà uno sprint, così come tra il 2015 e il 2016 potremmo riuscire a privatizzare un po' di Poste e di FS, ne parliamo sulle pagine di Finanza oggi, e tra l'altro oggi ti diamo anche uno speciale, 5 pagine dedicate alla voluntary disclosure, che sarebbe il rientro dei capitali, i 2 euro che ti sono caduti a Lugano, Alessandro. Quelli là, così ti facciamo anche tutti gli esempi, i costi e così via. Guarda che anche se ti fossero caduti, cioè te li fossi dimenticati in Italia e non li hai detti al fisco, ecco, potresti così, come dire, rimetterti in pari con il mondo e con la tua coscienza, ma soprattutto con il fisco. Vuoi cambiare la caldaia? Guarda, non ho di questo problema, ma... No, perché oggi ci sono le pagine di Casa 24, tra l'altro parliamo anche delle caldaie a condensazione, questo è molto interessante perché potrebbe essere un investimento di quelli convenienti, non con i tuoi 2 euro, prima li riporti in chiaro con la volontà di disclosure e poi casomai cambi la caldaia, però è un investimento interessante per chi è in regola anche con i pagamenti, magari i pagamenti condominiali. Avrei molte altre cose da dirti, te ne dico una sola. Da oggi puoi direttamente online scegliere di rateizzare il tuo debito con Equitalia. Il tuo è generico, non è che tu abbia un debito con Equitalia. Non puntavi il dito, ti ho visto. No, stavo dicendo il tuo era un tu generico. I want you, come Zio Sam. In generale era un tu così impersonale. Tutti i particolari nelle pagine di Norme e Tributi. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto, Eccolo qua, sempre all'ascolto, grande Gabibone. Allora, continuiamo la lettura dei giornali sulla vicenda di Roma, perché ci sono altre notizie, tante. Per esempio, finisce un po' nel tritacarne anche delle intercettazioni e dell'inchiesta Giovanna Melandri, ex ministro. Perché? Perché da tutti i giornali viene fuori che il commercialista del clan, il commercialista del clan, cioè colui che, secondo l'accusa, portava i soldi poi all'estero, destinazione Venezuela, via Svizzera, è il commercialista di Giovanna Melandri ed è colui che insieme a Giovanna Melandri ha cofondato la Human Foundation, di cui è presidente appunto Giovanna Melandri. Il Messaggero, il commercialista del clan della Fondazione Umanitaria, pagina 6, ci sono Valentina Errante e Sara Menafra con anche Giovanna Melandri che dice: sono furiosa, è il mio commercialista da 15 anni, sono addolorata e furiosa, l'8 dicembre gli abbiamo inviato una lettera per chiedergli di lasciare ogni incarico, sia pur nella speranza che possa chiarire la propria posizione. Gli abbiamo scritto che la nostra principale preoccupazione è il danno per la fondazione, che nasce sul presupposto della totale trasparenza e innovazione delle politiche sociali. Anche Fiorenza Sarzanini sul Corriere si concentra su questa figura, è la figura di Stefano Bravo, lo spallone che riciclava i soldi, creò la fondazione di Melandri. Questo è il titolo del Corriere a pagina 9. C'è poi un articolo molto molto interessante di Carlo Bonini su Repubblica che riguarda i recenti scontri di Tor Sapienza. Ve lo ricordate? Abbiamo dedicato anche varie puntate gli scontri per la cooperativa Un Sorriso, dove c'erano 45 minori, la popolazione in piazza, scontri per 3 giorni con assetto di polizia. Ebbene, Carlo Bonini racconta minaccia, aggressioni, avvertimenti mafiosi, l'ombra di Buzzi sui tumulti di Tor Sapienza. Lo scenario è inquietante. Chi insufflò le prove di pogrom di Tor Sapienza? Chi doveva incassare i dividendi di quelle notti di fuoco, sassi e cocci di bottiglie in una borgata rossa? Sono stati scomodati i sociologi per provare a dare un senso alla furia nella banlieue di Roma, ma forse la spiegazione viene dagli appetiti mafiosi del mondo di mezzo e da una coraggiosa donna salentina, Gabriella Enrico, presidente della cooperativa sociale Un Sorriso, che in quelle notti ha perso tutto, ha perso i 45 minori non accompagnati di cui aveva la custodia e la struttura che li ospitava, resa inagibile da un assedio violento. Ora ricorda Gabriella Enrico, in quei giorni mi chiamò Buzzi, mi disse: resisti Gabriella, mi raccomando. Io gli spiegai che succedeva fuori, è l'inferno, ci sono i fascisti, Salvatore, gridano Duce, Duce, e lui mi rispose lasciandomi di sale: non ti preoccupare, ora faccio un paio di telefonate e sistemo. Ecco, questa frase ora viene fuori. Telefonate a chi? Non capivo cosa c'entrasse Buzzi coi fascisti, dice Gabriella. E poi, qualche giorno dopo, qualcuno mi disse che Buzzi andava dicendo che ora mi aveva in pancia. Sì, così diceva, ora ho in pancia quella lì del Sorriso. Io mi infuriai, per un attimo pensai che a Tor Sapienza solo la mia cooperativa era stata assediata. Come mai le strutture nell'orbita di Tiziano Zuccolo, grande amico di Buzzi, che ospitavano anche loro migranti, non erano state sfiorate dalla rivolta? Insomma, qui lo scenario è che addirittura, come racconta Carlo Bonini in Repubblica, c'era qualcuno che appunto contrastava una cooperativa per poi farla sloggiare e continuare a fare affari con altre cooperative. Davvero uno scempio ogni giorno, sempre di più. Che dire, ne parleremo alle 8.15 anche dell'appello di Giorgio Napolitano e l'accusa all'eversione politica. Vi lascio con questa frase su questo tema, poi lo riprenderemo. La frase di Iena, Riccardo Barenghi, sulla Stampa, pagina 3. Sondaggio: è più eversivo un politico corrotto o un antipolitico onesto? Ecco, questo è il sondaggio. Rispondano un po' a questa domanda, lor signori. Per la cronaca, c'è tempo solo per raccontare una pagina di Repubblica che voglio mettere in evidenza, Gerardo Adinolfi, pagina 23, insulti, aggressioni, la vita del capotreno diventato bersaglio dei passeggeri. Lucca, lunedì 6.30, capotreno aggredito e ferito da una persona senza biglietto, cadendosi e fratturato tutte e due le mani. Reggio Emilia, controllore donna dell'azienda di trasporto pubblico regionale, scaraventata giù da un convoglio in stazione. Sicilia, capotreno Riccardo Caristi, 13 novembre, in pieno giorno, accoltellato sul Messina Milazzo, ferite a polmone. Insulti, sputi, calci, pugni. In Italia nel 2014 309 casi di dipendenti delle ferrovie aggrediti a bordo di stazione e treni, un dato che segna un preoccupante aumento rispetto al 2013, quando gli episodi però furono già di 227 aggrediti. Ora dicono: abbiamo paura, chiedono di raddoppiare almeno i controllori a bordo, ci sarà problema di personale, posso immaginare, ma mi sembra giusto per segnare il grado di inciviltà. Pagina 23 di Repubblica, la dura vita di coloro che lavorano sui treni. Oh, che dire della pagina di Libero? Pagina 19, sfighe cinesi e rutti arabi. Questo è il titolo, eh? Peter ride. Arriva l'Expo e allora è stato stampato un manuale perché arriveranno da tutto il mondo le persone, e allora sappiate che se un arabo rutta, almeno questo c'è scritto sul Libero, diciamo digerisce rumorosamente a pranzo, non è che è maleducato. Oppure se arriva un cinese, siete un albergatore, non dategli la stanza numero 4 che porta sfiga per i cinesi, mai il 4. Oppure se arriva un giapponese, siete degli albergatori, no ristoratori, albergatori, non dategli una camera con il letto orientato a nord. Per il giapponese è come se lo mettete in una bara, mai i letti orientati a nord. Insomma, avremo a che fare con paesi di mezzo mondo, con gente di tutto il mondo, speriamo, che verranno numerosi per l'Expo. Eccolo qui, scaramanzie orientali, cafonate dai miri, humor australiano, cosa fare e non fare per evitare risse coi turisti stranieri sul Libero. Vabbè, la Gazzetta dello Sport, la Roma non ce l'ha fatta, eh? Arrivederci Roma, fuori dalla Champions League. Io dico, cari amici romanisti, almeno vi concentrate sul campionato, vedete di vincerlo, grazie, contro la Juve. Detto questo, siamo al momento conclusivo. La carta costa è l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina di Giampaolo Pioli da New York sul Giorno. Angelina Jolie, Brad Pitt vietano ai figli i tatuaggi. Angelina Jolie ne ha 20 in tutto il corpo, ma a Zara e a Maddox, 9 e 13 anni, vogliono vietare i tatuaggi. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 19 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, io sarò un pessimista, un bastian contrario, non lo so, datemi anche del gufo che va tanto di moda, ma quando sento dire ora basta, i corrotti pagheranno, è un po' stento a crederci, dopo che per anni sono cresciuto, come molti italiani, a sentire tante volte ripetute questa frase. Penso l'ultima volta a Tangentopoli, no? Milano, anche l'ora si diceva basta, adesso abbiamo fatto Piazza Pulita e i corrotti pagheranno. Però insomma sono pronto a essere smentito dai fatti. Però attenzione, come ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, attenzione, punire i corrotti vada in carcere, ma tutto questo non deve dare vita a derive eversive dell'antipolitica. Il senso della misura, di capacità di distinguere ed esprimere giudizi differenziati è degenerata in antipolitica, cioè, lo ripeto, in patologia eversiva. Insomma, una frase molto molto pesante, antipolitica, patologia eversiva. Beppe Grillo si è molto arrabbiato, ha detto stia attento, lo denunciamo per vilipendio. Ovviamente sullo sfondo c'è sempre la vicenda di Roma, tutto questo verminaio che sta venendo fuori dall'inchiesta Mafia Capitale. Oggi vi vogliamo porre una domanda che in realtà circola sui giornali da tempo, e cioè a dire, ieri la stampa se la poneva proprio così, ma non è il caso, con tutto quello che sta venendo fuori, che a Roma venga azzerato tutto, tutti a casa? Per esempio lo dice il Movimento 5 Stelle. Saluto Daniele Frongia, che è consigliere nel Movimento 5 Stelle al Comune di Roma, presiede anche la commissione speciale capitolina per la riforma e razionalizzazione della spesa. Buongiorno Frongia. Buongiorno. Perché voi dite tutti a casa, azzeriamo tutto? Ma abbiamo letto l'ordinanza, abbiamo soprattutto analizzato le carte del Comune in quest'ultimo anno e mezzo, e di sicuro non si può parlare di 2-3 mele marce, ma di un vero e proprio sistema. Ma questo non lo dice Beppe Grillo, lo dice appunto l'ordinanza e i magistrati che hanno lavorato in questi ultimi 3 anni. È un vero e proprio sistema mafioso, che lavorava appunto con un vertice, con alcuni contatti diretti nella politica, nel mondo imprenditoriale, sì. Sistema pervasivo, e che... Però ci dovrà essere un processo, cioè questi sono gli atti di un'inchiesta, bisognerà vedere, ecco. Questo sicuramente, però ritorno alla sua prima affermazione, che a mio avviso è la più importante. Si parla sempre di fermare la corruzione, poi ma qualcuno pagherà? Ecco, io le dico, secondo me di no, nel senso che abbiamo 42.000 detenuti in Italia, ma grazie alle indulti e prescrizioni varie abbiamo pochissimi, ma pochissimi parlo nell'ordine delle decine, sì. C'è chi dice addirittura 8 casi per corruzione su 42.000 guardi, per corruzione, io questo, nel paese più corrotto d'Europa. Io questo poi lo chiederemo a Raffaele Cantone, che avremo ospite alle 8.40, e se ricordo bene, proprio nella prima intervista che facemmo con Raffaele Cantone, lui mi disse, ci disse una cifra, forse addirittura 4 o 5 si contano sulle punte, sulle dita, sono 8, di una mano. Però diciamo, ogni volta mi sembra impossibile, ma sono 8. Sono 8. Allora, intanto voglio salutare Chicco Testa, imprenditore, tra l'altro da poco è uscito un suo libro, Contro la Natura, Marsiglio Editore, che parla di altre tematiche, ma saluto Chicco Testa, buongiorno Testa. Buongiorno, ben trovato. Oggi Testa, Iena, cioè Riccardo Barenghi sulla stampa, fa questo graffio, ma è più eversivo un politico corrotto o un antipolitico onesto? Cioè, come dire, forse questa frase di Napolitano è stata un po' forte, no, del capo dello Stato, Testa. Ma non lo so, cioè, fra l'altro non capisco, cioè, Napolitano segnala un problema importante, vale a dire che la protesta politica giusta, legittima, eccetera eccetera, anziché dare vita a forme alternative di proposta, di governo, eccetera eccetera, riveste i panni del mandatevene un po' tutti a quel paese, no? E però in questo modo non si costruisce nessuna alternativa, con tutto rispetto per il Movimento 5 Stelle, ma non penso che il Movimento 5 Stelle arriverà ad avere più del 50% dei voti e quindi potersi sostituire interamente a tutti i partiti politici esistenti, né riesco a vedere nel Movimento 5 Stelle, che si è sentito forse anche giustamente tirato in causa da questa frase di Napolitano, una linea politica coerente, un programma, un'idea, diciamo, che possa costituire un corpo tale da candidarsi al governo di questo paese. Quindi l'appello di Napolitano è semplicemente questo, ragazzi. Diamoci da fare tutti, la corruzione è una cosa tremenda, ma... Però collaboriamo, non lo so, collaboriamo, ma va battuta costruendo una politica sana. Ecco. A proposito di questo, vorrei, Frongia, farle ascoltare ciò che il sindaco Marino, colui che secondo voi dovrebbe a questo punto essere, come dire, mandato a casa per sciogliere tutto, per via di quello che si legge nell'inchiesta, ha fatto, cioè, e non è la prima volta in questi giorni, un appello vero e proprio al Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Non possiamo accettare quel modo di essere del Movimento 5 Stelle. Io ve lo dico con chiarezza: se vogliono davvero dimostrare di essere persone per bene, davanti a problemi come questo devono assumersi le loro responsabilità, non scappare e dire le stesse cose che dice sempre Silvio Berlusconi o Gianni Alemanno. Non è così che si difende la legalità. Questo, Frongia, dice Marino. Che risponde lei al sindaco? E anche qualcuno fa capire che Marino vorrebbe, come dire, in qualche modo invitarvi a dire: volete collaborare? Collaborate. E la domanda è l'ipotesi addirittura di entrare in una giunta con Marino. Ma sono entrambe affermazioni molto interessanti, diciamo abbastanza curiose. Quello del Presidente della Repubblica, come vedete, si parla di un enorme fenomeno di corruzione che comunque, al di là di queste immagini, come diceva lei giustamente, ancora non abbiamo dei condannati, però ecco, le carte e le intercettazioni sono perlomeno inquietanti. Però ecco, si è spostato il problema dalla grande mafia a, in 8 giorni di silenzio, Napolitano, che adesso parla del Movimento 5 Stelle. Questo comunque sposta un po' l'attenzione, sposta il problema. Si parla di antipolitica in generale. Voi vi siete tirati vi siete sentiti chiamati in causa, ecco. Se, diciamo che è strano che un capo dello Stato rimanga zitto una settimana dopo quello che sta succedendo accanto a casa sua e dopo se ne esca con una frase del genere. Ma risponda su Marino. È molto curioso questo invito, perché noi è un anno e mezzo che facciamo proposte concrete, noi facciamo più che protesta, soprattutto proposte concrete, cioè delibere, mozioni che servono per una maggiore trasparenza e per diminuire la corruzione. Fino adesso il Partito Democratico e i partiti di maggioranza in aula venivano con una o due ore di ritardo o non si presentavano, non calendarizzavano le proposte, 8 settimane per far passare una delibera per migliorare la gestione dei rifiuti. Cioè, noi abbiamo collaborato da un anno e mezzo a questa parte, ma in assenza della maggioranza. Ora che si è scoperto questo sistema mafioso, diciamo presunto, quello che sia, ci chiedono una collaborazione. Ma la domanda è: ma proviamo a collaborare anche prima? È un po' tardi. Il Movimento 5 Stelle è sempre presente, 100%. Però lei dice collaborare vuol dire, non so, sulle delibere, eccetera, non certo entrare in giunta, cioè questa è un'ipotesi che non prendete in considerazione, addirittura di fare un governo di Roma insieme al PD. Guardi, le motivazioni sono numerose, gli dico solamente una che non è la più importante. Lei si figuri, visto che l'indagine sta andando avanti, che per adesso solamente un assessore è stato coinvolto e si è dimesso. Sì. Ma noi entriamo in giunta e tra 2 o 3 settimane viene fuori qualcos'altro. E noi abbiamo fatto, diciamo, abbiamo tradito un po' quello che era il nostro mandato. Entriamo in giunta, in governo della città, e poi si scopre che mai 2 o 3 assessori con i quali collaboravamo, se andavamo in giunta. No, ma questa è chiarissima, la vostra linea politica. Sono poi accusati di associazione antidelinquere di stampo mafioso. Voglio chiedere a Chicco Testa, ma Chicco Testa, alla luce di tutto questo, non andrebbe sciolta Roma? Anche qualcuno dice, beh, ma è Roma capitale, come si fa? Che immagine diamo nel mondo? Altri dicono, ma chi se ne frega, insomma, se tanto mi dà tanto. Ma non lo so, non sono abbastanza, diciamo, tecnicamente preparato a rispondere a questa domanda. Diciamo che personalmente ritengo che l'uso del termine mafioso, diciamo, per contraddistinguere di associazione mafiosa, per contraddistinguere il tipo di reati che si sono consumati a Roma, gravissimi, sia chiaro, mi pare onestamente un pochino eccessiva. Cioè la mafia, la camorra, l'andrangheta sono caratterizzati da comportamenti e fenomeni criminali diversi da quelli che abbiamo visto a Roma, che non toglie, ripeto, nulla la gravità di quanto avvenuto a Roma. Credo che la discussione che è in corso tenga un po' in considerazione questi fatti. Siamo in presenza di una associazione delittuosa con le caratteristiche della mafia, oppure a qualche cosa diverso. Comunque è una possibilità che non escluderei. Al di là degli aspetti tecnico-giuridici, diciamo, è mafia, non è mafia, eccetera, eccetera, ma per ripartire, diciamo, in un modo più chiaro e più pulito. Noi l'ultima volta che ci siamo sentiti ci aveva raccontato anche della famosa cena, no? Quella del fundraising in cui aveva partecipato. C'era anche Buzzi a questo punto, insomma, vabbè, eravate in tanti, ma adesso sembra che Buzzi fosse comparso un po' tutti, che lo conoscessero tutti, che lo frequentassero tutti. Sì, ma guardi, questo è come rimproverare ai 5 Stelle che Spezza Pollici abbia detto io simpatizzo, Spezza Pollici è uno dei personaggi compatti. Sì. È chiaro che in una cena in cui ci sono alla fine 700-800 persone non è che puoi fare l'esame del DNA a tutti, e soprattutto non puoi sapere se tra questi c'è qualcuno che ha compiuto o compirà dei reati. Sarebbe stato grave se una volta individuato un signore da parte della magistratura come colpevole di qualche cosa, questo signore era avesse partecipato cena, a queste scene, capito? Però, se no io non dovrei più... Guardi, le dico io, è capitato un problema a me, no? Lo dico qui, sì? Un consiglio di amministrazione con un signore nel cui curriculum c'è scritto, tra le altre cose, oltre che essere revisore del gruppo editoriale L'Espresso, no? È custode giudiziario per la Procura di Roma dei beni sequestrati per ragioni di mafia. Quindi la Procura di Roma lo usa come custode giudiziario. Sì, ok? Sì. Allora, quindi cosa posso fare io? Posso pensare che si tratta di una persona molto per bene, ok? Anche lui in maniera minore ha avuto un avviso di garanzia. Naturalmente ho sciolto il consiglio d'amministrazione e adesso si farà qualche altra cosa. Ma potevo mai sospettare io che un signore con un curriculum di questo genere potesse essere coinvolto in questa situazione? No, perché Frongia del Movimento 5 Stelle, mi corregga se sbaglio, Frongia ha messo, credo, su Facebook, sul profilo, una foto, la foto della famosa cena di Poletti con Alemanno, in cui c'era anche Buzzi, c'erano altre persone, e una foto sua, di una cena sua, e le ha messo sui commensali suoi, Frongia, onesta, ma lei lo sa, è sicuro che siano tutti onesti quelli con cui ha cenato? Magari si scopre tra 2 mesi che qualcuno ha avuto qualche problema. Frongia. Ma sì, ma io sono d'accordo, e quella tra l'altro non è una foto mia, ma sono alcuni simpatizzanti che hanno fatto questo fotomontaggio, diciamo così, qualcosa che ci fa sorridere. Il fatto è che si evince chiaramente, non solo dalle carte, ma anche dagli atti pubblici, che Buzzi finanziava diversi politici, quindi è chiaro che oggi, alla luce di quanto è emerso, io davvero invito tutti serenamente a leggere le carte. So che sono 1200 pagine, però sì, un po' lungo. Anche il romanzo criminale di De Cataldo era molto lungo ma molto scorrevole, anche questo lo è. Quindi al di là poi dei reati che verranno effettivamente accertati, è molto interessante vedere come veniva trattata la politica e i politici, compresi i finanziamenti delle varie associazioni alla politica, compresi gli stessi di Buzzi nei confronti del sindaco durante la campagna elettorale. Quindi è chiaro che non può essere, è chiaro che non sono, può dei bambini essere... che si lamentano, cioè, questa è l'ora, sì, è l'ora in cui si sveglia, in cui ci si sveglia, ci sono i bambini. No, non vorremmo crearle problemi con sua figlia, sua no, no, è tutto risolto, sì. Grazie. E che voleva intervenire in radio anche mio figlio, ma diciamo che per il momento non è possibile. Quindi, ecco, le dicevo, noi siamo molto preoccupati appunto dal vedere e come si muovono alcune associazioni. E poi ci tengo anche io a precisare che la generalizzazione è sempre sbagliata. Per esempio, sono moltissime persone oneste, la maggioranza, forse tutte, che lavorano in alcune di queste associazioni, la stessa di Buzzi, magari anche sottopagate, eccetera. Quindi adesso ho saputo di alcuni episodi spiacevoli in cui addirittura, se si dice che si lavora per la 29 giugno, no? Si viene automaticamente associati a... Questo no, la cooperativa 29 giugno, la cooperativa, e non è che tutti quelli che lavorano su Buzzi si accerterà, però insomma tutti quelli che lavorano sono persone fino a prova contraria. Mi faceva piacere sottolinearlo, perché abbiamo saputo alcuni episodi spiacevoli da questo punto, sì, di vista. Io però vorrei chiedere a Chico Testa, ma perché dobbiamo credere a Renzi quando dice adesso basta i corrotti, e che è una frase che insomma io l'ho sentita tante volte, lei che ha più anni l'ha sentita ancora più volte di me. Beh, e che deve dire? È ovvio. No, certo che deve dire, sì, ma perché dobbiamo credergli noi? Questa è, no, credo che Renzi debba fare un passo in avanti, non tanto e non solo sull'inasprimento delle pene, dei comportamenti criminali, eccetera, eccetera, ma su quello che io considero il problema principale. E mi interessa sentire l'opinione dell'esponente 5 Stelle, che mi sembra una persona ragionevole. Vale a dire il prosciugamento del lago in cui nuotano tutti questi pesci, e il lago in cui nuotano tutti questi pesci è l'eccesso di spesa pubblica fatta in un certo modo. Sono problemi che abbiamo letto sui giornali, quindi non invento sicuramente io, l'altissimo numero di società pubbliche municipalizzate, soprattutto le decine di punti che in ogni comune italiano possono erogare spese e fare appalti. Ma mi scusi, in ogni azienda seria, e lei lo sa, c'è una persona, un ufficio che si occupa degli acquisti, dei lavori, eccetera, eccetera, con procedure molto precise. Ci sono sistemi di audit per cui qualcuno controlla dall'esterno che quelle procedure siano fatte nel modo giusto. Credo che se noi guardiamo dentro il Comune di Roma, ci sono probabilmente centinaia di persone che sono abilitate ad affidare lavori. Ma infatti era lì dei colletti bianchi che erano le cose che vanno fatte, capisce? Sono anni che se ne parla, cioè in Italia abbiamo migliaia e migliaia di stazioni appaltanti e nessuno vuole. E perché un piccolo comune, per esempio anche un comune medio, dice no, gli appalti li faccio io? Se ti interessa costruire una scuola o costruire qualche cosa, ma perché non accetti che a scegliere il tuo fornitore sia, che ne so, un punto di appalto provinciale? Alla fine ti interessa che il gatto catturi il topo, non di che colore sia il gatto, cioè se il gatto deve essere fatto da amici tuoi o amici di quell'altro, no? Se non prosciughiamo questo eccesso di presenza dello Stato italiano in tutti i gangli della vita economica, inevitabilmente avremo sempre questi fenomeni. Vediamo, è lì, e devo poi concludere e andare in pubblicità, frongia che si annida anche gran parte degli sprechi, o meglio della corruzione. E guardi, io appunto presiedo una commissione che è quella della Spending Review di Roma Capitale, quindi questi temi chiaramente li seguo con molta attenzione e sono d'accordo, dobbiamo prosciugare quel lago, dobbiamo razionalizzare la spesa. Ho seguito con molta attenzione il lavoro di Cottarelli, presidente della Commissione Spending Review, però molte delle sue indicazioni al momento non sono state realizzate, quindi ben venga questa famosa riduzione degli 8.000 enti, delle 8.000 aziende collegate agli enti locali, però anche questo, come diceva lei, sono cose che si sentono da anni, forse da decenni. Come la riduzione delle centrali d'acquisto, dovevano essere ridotte a 1.000 da centinaia di migliaia. Abbiamo lavorato anche appunto anche con il MEF, ma da questo punto di vista la riduzione c'è stata. ma non del tutto sufficiente. Questo da un lato, dall'altra però ritorniamo alla considerazione sua iniziale, la certezza della pena, cioè chi sbaglia paga, visto che poi noi in carcere siamo andati moltissime volte e c'è un'elevata percentuale appunto di poveracci, passatemi il termine, e non di condannati bianchi, appunto, non riusciamo nemmeno a trovarli. Guardi, questa sarà la prima domanda che farò tra 5 minuti a Raffaele Cantone dopo la pubblicità. Intanto ringrazio Chicco Testa, imprenditore, ringrazio Daniele Frongia, consigliere del Movimento 5 Stelle del Comune di Roma, e pubblicità, e poi ripartiamo con Raffaele Cantone che presiede l'anticorruzione. 24 mattino. Sono le 8:42 minuti e saluto il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone. Buongiorno, presidente. Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno. Non so se lei è riuscito ad ascoltare prima, ma insomma parlavamo. No, purtroppo no. Parlavamo di Roma, c'era il consigliere del Comune di Roma, Daniele Frongia, che ci ha detto, a lui risulta che ci sono 8 persone in questo momento in carcere condannate per corruzione. Io ricordo che nella prima intervista che facemmo qui, quando ebbe questa nomina, lei ci parlò proprio di queste cifre. Ce le può dire, cioè è vero, quante persone sono in carcere per corruzione in Italia? Guardi, questo francamente io non lo so, più o meno, perché non rientra. Io credo che saranno più o meno quello che dicevamo, probabilmente anche meno dei 7-8. È difficilissimo in Italia essere detenuti per corruzione, soprattutto in espiazione pena. Questo devo dire è un dato, diciamo, obiettivo, che dipende anche dal nostro sistema sia processuale sia penitenziario. Che cosa però le devo dire, mi scusi, sì, che non è questo l'oggetto di grande preoccupazione, perché io credo che per la corruzione, pure se non si vada in carcere, non sia quello realmente il problema. Il problema è che arrivino le condanne e soprattutto che si possa operare con meccanismi diversi, per esempio quelle delle confische. Io credo che in questi campi una confisca sia molto più utile del carcere. Una confisca, per esempio, che cosa può cambiare davvero? Lo so che non è il suo ruolo fare politica, ma è tecnicamente, da magistrato, ci aiuta a capire cosa può cambiare perché effettivamente quell'appello di Renzi, ora si vada in carcere per corruzione, possa essere efficace. Ma guardi, io credo su questo punto che sicuramente l'aumento della pena minima può essere una soluzione, forse diciamo non particolarmente elevata, ma l'aumento della pena minima può certamente essere una soluzione, così come può essere una soluzione, dovrebbe essere una soluzione soprattutto intervenire sui meccanismi della prescrizione, perché il punto vero dei processi in materia di corruzione riguarda soprattutto la tendenza e la prescrizione ormai quasi fisiologica di questi processi, perché nei tempi per accertare rispetto alla commissione del fatto, nei 7 anni e mezzo che è il termine in cui si prescrive il delitto di corruzione, è quasi impossibile che si raggiungano 3 gradi di giudizio. Allora un minimo aumento della pena minima accompagnato da una riforma della prescrizione credo che potrebbe dare effetti positivi. Cioè una riforma potrebbe essere: la prescrizione si blocca dal momento in cui inizia il procedimento? Ma guardi, forse questo è eccessivo, detto con franchezza io non credo che questa sia la soluzione migliore, perché la prescrizione è un istituto comunque fondamentale di civiltà, perché non si può pensare che un cittadino venga condannato anche per reati gravissimi a distanza di troppo tempo, tranne che per l'omicidio, che è un reato per sua natura imprescrittibile. Quindi la prescrizione è un istituto di civiltà che deve restare. Il punto ovviamente è stabilire dei criteri che consentano, per esempio, dopo una sentenza di condanna, che i termini almeno in parte ricomincino a decorrere. È per esempio un paradosso che dopo 2 gradi di giudizio, eventualmente con 2 sentenze di condanna, il processo si prescriva in Cassazione. Lì mi sembra davvero poco giustificabile, oppure dopo una sentenza di primo grado ci sia la prescrizione in appello per termini precedenti. Anche quindi, perché anche gli avvocati poi puntano a quello, voglio dire. Certamente, e questo ha un effetto ancora paradossale, peggiore sui tempi del processo, perché la prospettiva della prescrizione fa sì che poi non ci sia per esempio la scelta dei riti speciali, cioè ci sono tutta una serie di conseguenze che paradossalmente finiscono per rendere ancora più lungo il processo. Farraginoso. Lei dice che la gente la ferma per strada e dice, insomma, li arresti tutti, li mandi tutti, lei che adesso non ha più questo ruolo, ma si respira quel clima di mani pulite, lei in qualche modo? Ma guardi, io vedo un clima di esasperazione fra le persone, un clima di esasperazione che obiettivamente è collegato alla situazione economica. In un momento in cui c'è una crisi, c'è molta gente che ha visto ridotto il suo livello di vita in modo anche significativo, spettacoli come quelli di chi si può permettere il lusso attraverso la corruzione di fare certi tipi di vita, oppure di lapidare soldi pubblici lì dove per altri aspetti poi i soldi pubblici vengono ridotti per servizi essenziali, porta a volte a un'esasperazione che forse è persino semplicistica ma è giustificata. Sono i momenti nei quali è più difficile ragionare. Io devo dire diffido un po' di questa indignazione del momento, l'abbiamo già vista a Mani Pulite, l'indignazione delle monetine, l'indignazione dei cappi. Non è detto che poi chi lanci le monetine mantenga lo stesso atteggiamento coerente nel periodo successivo. Questo è un momento nel quale secondo me si può cogliere l'occasione, la crisi economica paradossalmente sarebbe l'occasione ideale per potersi liberare definitivamente dalla corruzione, o sì, quantomeno ridurla, perché la corruzione non potrà mai essere questo certamente, purtroppo un po' endemica. Presidente Cantone, il Campidoglio, glielo chiedo direttamente la domanda che ci poniamo, andrebbe sciolto, commissariato? Certo, c'è una commissione, ci saranno delle indagini per 6 mesi, ci sarà poi una relazione che verrà data al prefetto, però qualcuno si dice ma no, Roma capitale non può, insomma siamo la capitale mondiale. Diciamo che sarebbe un atto molto forte, in astratto non c'è una incompatibilità, no, fra lo scioglimento, il comune di Roma è un comune come tutti gli altri comuni d'Italia, c'è un problema diciamo sicuramente dal punto di vista politico, ma c'è un problema anche dal punto di vista giuridico, perché ovviamente bisogna tener conto che la legge sullo scioglimento dei consigli comunali, pensata per i piccoli comuni, richiede un presupposto che poi va verificato con riferimento al comune di Roma, cioè va verificato se i meccanismi di infiltrazione siano stati in grado di incidere sulla macchina comunale, e una macchina comunale complessa come quella romana rende molto più difficile provare questo presupposto. La corruzione, lei ha sempre detto, non si sconfigge con gli arresti e mandando in carcere persone, è una questione culturale, quanto è una questione politica? Cioè lei vede per esempio i partiti politici impegnati su questo fronte? Ma io vedo i partiti politici impegnati abbastanza con logiche abbastanza diciamo di discontinuità, nel senso che è un po' anche tipico della politica occuparsi soprattutto delle emergenze. Questo è un tema in cui c'è un grande interesse nel momento dell'emergenza, interesse che poi viene meno quando l'emergenza finisce. Questo è un dato diciamo tipico, e la corruzione è un fenomeno proprio perché è endemico, proprio perché è un fenomeno diciamo anche molto molto presente nella società italiana, che invece dovrebbe essere trattato con un impegno io credo molto più continuo, e mi auguro che forse questa possa essere davvero l'occasione per un impegno diciamo che non finisca al momento in cui l'emergenza passerà. L'ultima domanda è questa: molti contestano, pur dicendo è chiaramente uno scenario apocalittico quello che emerge dall'inchiesta, contestano però l'associazione mafiosa, cioè che si possa parlare di mafia, lo fanno commentatori, giornalisti, ha fatto Giuliano Ferrara, prima avevamo Chicco Testa anche, che ha messo in dubbio, dice sarà certamente uno schifo, ma forse la contestazione di dire c'è una mafia a Roma non è esagerato. Lei che ne pensa? Lei che di tante inchieste di mafia si è occupato? Guardi, prima di tutto ovviamente bisognerebbe avere una conoscenza del processo e degli atti processuali molto diciamo più ampia e approfondita di quella che ho io. Sicuramente la Procura di Roma ha provato a dare un'interpretazione anche evolutiva della fattispecie del reato di quella 416 bis, nel senso che la caratteristica del reato del 416 bis è quella dell'intimidazione come presupposto dell'attività mafiosa. Qui in realtà diciamo l'intimidazione c'è, ci sono intercettazioni chiarissime su questo punto, ma la caratteristica di questa associazione mafiosa e di questa associazione è quella di occuparsi soprattutto di essere presenti nel mondo degli affari, nel mondo della politica, degli appalti. Devo dire che, e però utilizzando l'intimidazione quando è necessaria, perché ci sono intercettazioni, ci sono interventi in questo senso. Questa ricostruzione dell'associazione mafiosa è una ricostruzione anche in linea con il nuovo modello sociologico, cioè le mafie si stanno evolvendo. Ora bisognerà capire dal punto di vista giuridico fino a che punto quella norma del 416 bis possa essere estesa. Devo dire, giuridicamente sono davvero curioso anche di leggere l'ordinanza del Tribunale di riesame e le successive sentenze alla Cassazione. Io credo che l'interpretazione di Roma sia un'interpretazione evolutiva che tenga conto di come le organizzazioni mafiose stanno cambiando. Intanto la ringrazio, ovviamente buon lavoro a Raffaele Cantone, grazie per essere stato con noi, e devo andare al traffico. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8.52 minuti, sentirei Rosa da Roma. Rosa, buongiorno. Buongiorno. È lì da tanto e la ringrazio, dica. Di nulla, salto ovviamente i convenevoli complimenti. Sì, dica, vada al scelgo punto. Lei, vado al punto. Io come milioni di cittadini italiani quotidianamente vado a lavorare onestamente, impegnandomi, eccetera. E mi indigna, mi infastidisce il fatto che a cadenza più o meno, con periodicità più o meno regolare, qualcuno, e in particolare gli esponenti della classe politica italiana, sembrano si meraviglino o comunque lancino allarmi, sì, su un'antipolitica. Mentre credo che l'unico serio rimedio all'antipolitica sarebbe solo quello di impegnarsi seriamente sia a livello di selezione della classe politica per merito e competenze e non per familismi vari. Cioè, ci fosse questo, lei dice non ci sarebbe bisogno dell'antipolitica. Rosa, no, la ringrazio, la sfumo, ma è stata molto chiara, perché altrimenti non riusciamo a dare lo spazio al nostro ascoltatore dall'estero. Al nostro spazio in cui ascoltiamo ogni giorno qualcuno che ci parla dall'estero, e comincio a sentire chi abbiamo oggi. Francesco, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao. E ciao Italia. Ciao, dove sei? Tu dici ciao Italia, io cosa devo dire? Ciao, dove sei tu? Ciao, Stoccolma, Svezia. Stoccolma, in Svezia. E che ci fai lì a Stoccolma? Cercavo un meteo migliore. No. Volevi stare al calduccio, no? Sì. Quanti gradi ci sono di sti tempi? Oggi più che a Milano, per la verità. Ce ne sono 3 o 4. Ah, beh. Sì, ma quest'anno è un anno un po' particolare, un po' più caldo. Diciamo tendenzialmente sono 10-15 gradi in meno. E che ci dici di Stoccolma? Che fai lì di bello? Ma qua faccio progettazione di illuminazione e di apparecchi di illuminazione. Mi sono trasferito qua con mia moglie, che è finlandese, e abbiamo cercato un posto nel mezzo tra l'Italia e la Finlandia dove iniziare una nuova vita, diciamo. Mi sa che ha vinto lei, perché sei un po' più vicino in Finlandia che in Svezia, effettivamente. E come al solito sei fatto fregare dalle donne, vabbè Francesco. E che dici, che ci racconti, che dicono dell'Italia? Ci amano tanto in Svezia, parlano di noi. Sì, parlano di noi, anzi l'italiano qua è considerato molto bene, nel senso che è considerato quello che ha la Ferrari, quello che mangia bene, quello che veste Gucci, che ha la Ferrari, tu c'hai la Ferrari, sei arrivato lì in Ferrari, di la verità. Ah, io non ho neanche la macchina, io mi muovo qua con i mezzi, io sono tra il Volgo, ecco. Però siamo assolutamente ben visti e... si guardano un po' con ironia a volte. Quando si parla di politica, storcono sempre un po' il naso, fanno dei risolini. Vabbè. E tu come rispondi? Pensate alla politica svedese. Ma no, io sono autoironico, mi piace anche fare un po' di ironia sulla mia politica. E anche loro in questo momento in realtà hanno una situazione analoga, nel senso che molto probabilmente dovranno rivotare. Allora dirglielo, ma siete messi peggio di noi, cosa volete? Francesco, devo correre, devo salutarti, un abbraccio anche a Stoccolma, e domani chi scopriremo di ascoltatore all'estero? Chissà, a domani!